quegli anni lì, quelli che sono arrivati alla massima espansione lavorativa del villaggio, c'era la mensa, che era una mensa abbastanza grande, se ricordo, della Lora Coris, invece di Cero, insomma. Poi dopo, insomma, è cominciato il momento diciamo, di abbassamento dei livelli occupazionali, e quindi la mensa è sparita, e aziende, cioè, girarci adesso nel villaggio artigiano è un po' triste da questo punto di vista, perché si vedono come dire, strutture abbandonate o semi abbandonate, insomma, rispetto a quello però che sta rinascendo, insomma, perché stanno già riconvertendo, no? Perché c'è un ristorante dove c'era una fabbrica, c'è una sala di... Ma ho visto poi anche quest'estate, dove c'era un biglietto con un'inaugurazione di qualcosa dentro il villaggio, insomma... È un processo lento, comunque si sta sviluppando adesso, però, mi sembra che ci vogliono degli anni per riportare, però quella vitalità, insomma, quella,